Ebbene, l'avevamo promesso, siamo arrivati alla sesta puntata della seconda edizione di Boca Chica. Chi l'avrebbe mai detto? È vero, Bimo, chi l'avrebbe mai detto? Oggi con tanti ospiti, sempre dal Centro Sociale Occupato Autogestito di Roma, Forte Prenestino, e questa è la nostra sigla. Boca Chica. Tesmadrom. Boca Chica. Siamo tornati in diretta con l'unica trasmissione al mondo che si occupa di espansione del capitalismo nello spazio. Beh, non solo nel sistema solare, iniziamo con quello, ma in realtà le mire del capitalismo probabilmente vanno anche ben oltre. Beh, benvenuti a Boca Chica Cosmodrome. Ogni volta lo diremo in maniera diversa, ma questo è un presupposto, ormai è diventato un tormentone. Ho detto bene Cosmodrome? Sì, sì, ma immagino di sì. No, ma lui è chiuso, Cosmodrome. Quindi non ti può rispondere. Allora, siamo alla sesta puntata, dicevo. E dicevo anche l'unica non trasmissione. Non riusciremo mai a dire Cosmodrome. No, l'unica trasmissione che si occupa di capitalismo spaziale. Abbiamo tra pochissimo un ospite. Però prima di questo un piccolo sum di quello che faremo e diremo. Insomma, siamo un po' già di volte che parliamo, soprattutto quest'anno l'avete visto rispetto alla scorsa edizione, parliamo più di attualità e di cose che accadono in tempo reale, quindi quest'anno siamo un po' meno analitici e su questo oggi ci confronteremo, vero Bimo? Sì, oggi saremo anche un po' analitici, almeno nella parte che mi riguarda. Benissimo. Torneremo però ai vecchi tempi. Però prima di iniziare abbiamo, come dicevo, l'ospite, e l'ospite è un ospite che non parla di capitalismo spaziale, Kenobit, e vi racconterà lui in questo momento di che cosa cosa si vivrà domani a Forte Prenestino e perché lui è qui da noi. Ciao. Ciao, a parte che il fatto che non parlo di capitalismo spaziale è tutto da vedere. Di comunque, qualcosa sul capitalismo spaziale. Beh, penso che sia una tematica di estremissima attualità e le letture di fantascienza che ho fatto negli ultimi anni, la fantascienza quella speculativa che mi piace di più, hanno affrontato in maniera molto interessante il tema e ciò mi ha reso ancora più consapevole dell'importanza di questo tema, anche perché banalmente, adesso non conosco il pregresso della trasmissione, però quello che penso sempre io è che vedo la gente che tifa per Elon Musk, cioè tifa per SpaceX, con in realtà anche un sincero e benintenzionato amore per la corsa allo spazio, ma non vede che sta succedendo una cosa gravissima, ossia che l'esplorazione spaziale e tutto il progresso che può generare sta venendo privatizzato. Tra l'altro, l'America è un posto spacciato con questa roba, è fatta pure con i soldi, il privato che lo fa con i soldi della gente, proprio capitalismo malvagio, estrattivo massimo. Bimo, ma io pensavo che eravamo gli unici a occuparci di questi argomenti. Possiamo chiudere. Allora, se chiamiamo quando, un ospite che dovrebbe, una rubrica, chiamiamo un ospite che dovrebbe parlare di tutt'altro, invece ci sorprende. Capito? Con le sue argomentazioni. Qui possiamo avere una rubrica. Noi offriamo rubriche come se fosse. No, so. Però è inquietante, perché se pensiamo che in questo momento l'avanguardia, o quantomeno una delle avanguardie dell'esplorazione spaziale, con una cosa che in realtà è molto sensata, ossia è la cosa migliore dopo l'ascensore spaziale, il razzo riutilizzabile, è una cosa in realtà molto importante e che dovremmo avere come collettività, e invece è in mano a un'azienda privata, tra l'altro guidata da una figura che è estremamente problematica per un'infinità di altri motivi. Che tra l'altro decide anche come colonizzeremo gli altri pianeti, che mi sembra molto molto pericoloso. Esatto. Accidenti, sì, anche perché vogliamo lasciare proprio la parola colonizzare è particolarmente calzante in questo contesto, perché sto cercando una nuova parola per il mio concetto di colonizzare altri pianeti, perché io non vorrei colonizzare Marte. Possiamo provare con terraformare? Terraformare è un termine che amo. Vi consiglio, che affronta in maniera narrativamente molto bella e fantasiosa queste tematiche, la trilogia di Kim Stanley Robinson, Marte Rosso, Red Mars, Blue Mars, Green Mars, che è la lunga storia della terraformazione di Marte, con un approccio molto interessante anche proprio veramente nell'ottica dei discorsi. C'è un altro libro che consiglio, che è Old Man's War di John Scalzi, nel quale, allora vedilo un po' come un erede della fanteria nello spazio come concetto, ma parte da una premessa molto interessante. L'esplorazione spaziale è stata privatizzata, e a un certo punto l'azienda che aveva quindi di fatto un monopolio dell'espansione spaziale incontrava nello spazio un'altra civiltà o comunque un qualcosa che fa fare uno scatto tecnologico, prende lo scatto di un'era. Cioè, se noi incontrassimo degli alieni che ci dicono raga, la fusione si fa così, un po' come si dice sia accaduto a Roswell. Esattamente. E in questo futuro che lui immagina, questo vantaggio tecnologico immane diventa un segreto industriale di questa azienda, che di fatto raggiunge un grado di sviluppo devastante, tale da di fatto ottenere un potere egemone su tutta la Terra. E quindi ve lo consiglio moltissimo. E è un bel libro che parla proprio di questi temi, e che quando io ho visto la corsa alla privatizzazione che c'era con Elon Musk, ho proprio pensato, accidenti, qua abbiamo solo da perdere se questa roba non è collettiva. Anche perché inevitabilmente, chiamiamoli come li chiamiamo, è una roba fatta con risorse che ci appartengono, cioè che sono della collettività e che vengono utilizzate in maniera anche abbastanza scellerata. Ma l'espropriazione è un grande classico del capitalismo, e quindi assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Anzi, ti invito, Kenobit, a andarti, se così ci darei anche un parere, a sentirti soprattutto le puntate. Ci sono 40 ore di puntate. Esatto, che ti le aspetta. Puntate sui nostri podcast. Quando ero? 2 anni fa, Bimo, che sì, andavamo, esatto, che andavamo in onda. Io vi invito ufficialmente. Allora, io sto portando avanti una battaglia insieme ad altre persone sul fediverso, o meglio, sulla rivendicazione degli spazi social, perché al momento usi YouTube, stai usando uno degli strumenti principali del capitalismo, usi Instagram, idem, e il contenitore plasma il contenuto, quindi noi possiamo essere... E il contenitore è fuori dal tuo controllo. Esattamente, il contenitore, noi non abbiamo assolutamente voce in capitolo, cioè è peggio di qualsiasi cosa, non abbiamo nessun modo neanche sindacale per esercitare un micron di influenza su questa cosa, e quindi sto portando avanti una battaglia con tante persone sul fediverso, che è un ecosistema, la semplifico malamente, di servizi in tutto e per tutto affini a Instagram, Twitter, tutte le robe che usiamo quotidianamente, ma open source e autogestite e orizzontali. Quindi mentre su Instagram, se Zuckerberg decide che dire Gaza libera è una roba politica e sconveniente, da noi non lo può decidere nessuno, o meglio lo può decidere il singolo o la singola proprietaria, o lo possono decidere tutti, e quindi vi invitavo a portare questi contenuti che sto amando, mi sto proprio divertendo, su Stereo, che è la nostra piattaforma Funquail, che è come uno Spotify nel quale abbiamo musica ma anche podcast e sarebbe molto bello avere queste cose. Ma faremo i soldi? Guarda, io dico Allora, la mia proposta era che se che Hobbit si può fermare, cambiamo completamente il senso della puntata e andiamo avanti un po' così. Che non so, tu ti puoi fermare, ti puoi fermare, parliamo di un po' di cose. Se per gli altri va bene, rimandiamo la 6, facciamo una 5, una 5, una 5A. Intanto, però, che è un nostro grande classico, in cui faremo un momento consigliare e decideremo anche questa cosa, perché tra l'altro non hai detto, ma ci ritorneremo, perché sei tra l'altro qui al centro sociale. Esatto, era una cosa che doveva dire all'inizio. Sono un genio della promozione, che vengo invitato e non parlo della cosa da promuovere. Esatto, esatto. Però noi qui adesso quest'anno abbiamo una consuetudine, quella di mandare dei 45 giri dello spazio che vengono dagli anni 60, da una enciclopedia appunto degli anni 60 che si chiamava L'uomo e lo spazio. Io ricordo sempre che siamo Boca Chica Cosmodrome, siamo in diretta da Radio Forte nel CSOA Forte Prenestino di Roma e abbiamo un canale Telegram su cui potete farci domande e vincere grandi premi. E allora io direi, Bimo, andiamo con il nostro inserto 45 giri. Il 26 aprile 1967 l'Italia si presentò alla ribalta della ricerca spaziale con una impresa condotta da scienziati e tecnici italiani al largo delle coste del Kenya, nell'Oceano Indiano. Il lancio in orbita di un satellite meteorologico, il San Marco 2, nel quale culminava il programma San Marco di cooperazione internazionale fra Italia e Stati Uniti. Anche la nostra nazione, dunque, entrava nel novero delle grandi potenze impegnate in imprese dello spazio e vi entrava nel migliore dei modi, con un rafforzato prestigio scientifico, con una organizzazione collaudata e con mezzi di ricerca ed impiego originali. Il progetto italiano risultava, anche a giudizio dei tecnici stranieri, il più impegnativo e il più originale di tutti i progetti di cooperazione affrontati fino allora dalla NASA con nazioni europee. L'Italia, tra i primati conquistati con l'impresa, diventava la prima nazione dopo Stati Uniti e Unione Sovietica a mettere in orbita un proprio satellite con l'impiego e il lavoro di personale tutto italiano. L'operazione di lancio fu diretta dal professor Luigi Broglio, direttore del Centro Aerospaziale di Roma, il luogo cioè dove era nato, si era sviluppato e realizzato il progetto San Marco. Il professor Luigi Broglio viene considerato da molti il von Braun italiano, e non soltanto per la sua figura di scienziato spaziale, ma anche per la sua profonda conoscenza dei segreti dello spazio e le sue doti naturali di creatore missilistico. E lo stesso professor Broglio a spiegarci qualcosa del suo progetto. Per quanto riguarda la parte satelliti, abbiamo progettato, costruito, provato a terra circa 13, anzi esattamente 13 satelliti. Poi è stato costruito un completo poligono spaziale, il poligono San Marco, con la strumentazione relativa, la quale si può dividere in due grosse entità. La strumentazione che serve per il poligono, cioè che serve essenzialmente per la sicurezza del lancio, cioè per seguire la traiettoria del satellite finché è propulso dal razzo, quindi radar, stazioni di telemisura, con il cosiddetto comando di istruzione, eccetera. E il secondo gruppo di strumentazioni che invece serve per tutte le operazioni a terra sopra il razzo vettore, cioè serve per le operazioni di assiemamento e di verifica, calibrazione del vettore prima dell'operazione spaziale. L'Italia, dunque, come abbiamo detto, è l'unica nazione al mondo a possedere un poligono mobile e per di più sulla linea dell'equatore. Ciò significa, a parte il prestigio, avere la possibilità di realizzare lanci in orbita equatoriale con l'enorme vantaggio di effettuare una traiettoria quasi perpendicolare. Molti in Italia, dopo il lancio del San Marco 2, si chiesero se queste imprese spaziali italiane fossero alla fin fine utili al nostro paese e, meglio ancora, se la spesa pubblica fosse ben impiegata in tal senso. Il professor Broglio rispose in termini scientifici, ma anche in termini pratici, a tutti gli scettici. Credo anche che questa attività che noi abbiamo svolto attraverso il San Marco e svolgiamo con il San Marco in campo scientifico sia importante da un punto di vista culturale. Certamente si porta un contributo all'aggiornamento e al progresso scientifico e tecnico anche da un punto di vista dell'insegnamento universitario tecnico, del nostro paese. Credo che nessuno possa mettere in dubbio l'importanza della ricerca spaziale per i satelliti di applicazione pratica, perché se io con un satellite di telecomunicazione riesco a fare un allacciamento telefonico aggiuntivo fra Italia e America con un costo che è la decima parte di quello che io dovrei spendere, per esempio con un cavo sottomarino, se io per esempio voglio fare una fotografia dell'Europa, ad una vasta regione, e faccio questo con un satellite con la spesa estremamente inferiore, in un tempo molto inferiore a quello con quale potrei ottenere lo stesso scopo operando per esempio la fotografia aerea, e se io per esempio con i satellite meteorologico riesco a portare la previsione da un giorno a 3 settimane, è chiaro che queste cose più economiche o queste cose che solo posso fare con il satellite rappresentano un beneficio decisivo sul quale nessuno può discutere. È un investimento, in questo caso il teleaspaziale è certamente una cosa remunerativa, una cosa economica. Soldi spesi bene dunque, ma vi sono altri aspetti positivi legati alle imprese italiane dello spazio. Numerose industrie del nostro paese sono state chiamate a collaborare nei loro rispettivi settori alla realizzazione di satelliti, si sono dunque schiusi nuovi orizzonti, è stato coniato un nuovo linguaggio tecnico ed economico, si sono affrontati nuovi studi, risolti nuovi problemi che fino a ieri soltanto erano sconosciuti. Il Centro Microonde di Firenze collabora attivamente al progetto San Marco e a tutte le imprese spaziali italiane. Lo conferma il dottor Nello Carrara, che ne è il direttore. È stata progettata e realizzata un'apparecchiatura di bordo che comprende essenzialmente uno speciale trasmettitore su 20,005 MHz. Questo trasmettitore è stato tenuto in funzione su comando da terra dal 26 giugno al 15 luglio 1967. Durante questo periodo il Centro Microonde ha effettuato un programma di indagini assai interessanti e abbastanza originali sulla propagazione ionosferica nella zona equatoriale. E lo scopo principale del programma è stato lo studio sistematico della propagazione dei segnali del satellite a lunga distanza, oltre a quello della struttura delle irregolarità locali della densità elettronica alla quota del satellite. Ma anche altre industrie impegnate in produzioni nazionali, come quella della gomma, sono state chiamate a portare il proprio contributo prezioso. Ecco un esempio. Era necessario inventare, costruire nuovi cavi sottomarini in gomma per i collegamenti e le comunicazioni al largo delle coste del Kenya fra le due piattaforme mobili, San Marco e Santa Rita, che compongono il poligono di lancio. Ci ha pensato la più grande industria di pneumatici italiana. L'ingegner Giuseppe Palandri è direttore del Centro Ricerche, Studi e Realizzazione del settore cavi. Abbiamo studiato dei cavi appositi per poter essere posati in quei mari tropicali, e quindi erano cavi che dovevano avere, oltre che la possibilità di trasmettere, anche la possibilità di resistere all'azione di microorganismi, di animaletti che sono ricchi in quei mali, e quindi costruiti con particolari accorgimenti. E risiamo qui di nuovo in diretta da Boca Chica Cosmodrome. Non è perfetto, ma è meglio. Ci sto arrivando. Ma Bimo, in una vecchissima edizione di questa trasmissione, di cui non ricordo più il titolo, abbiamo già parlato del satellite San Marco. Anche l'ingegnere. Avevi una lacrimuccia che ti usciva da una puntata patriottica. Molto interessante. Sì, la mano sul cuore. Vi abbiamo fatto sentire in realtà la versione completamente originale, ma lì il programma spaziale italiano nasce lì sostanzialmente, e addirittura l'Italia, non per patriotismo, non ce ne frega assolutamente niente, ma era la seconda nazione a mandare nello spazio qualche cosa, quindi insomma la terza, scusate, terza. Col cuore gonfio di orgoglio, esatto, un satellite quasi tutto completamente italiano, e forse insomma prima sicuramente la primissima la primissima interazione italiana con lo spazio. Beh, allora, siamo sempre a Boca Chica Cosmodrome, siamo sempre in diretta da Radio Forte, dal CSO a Forte Prenestino di Roma, e siamo qui sempre con il nostro ospite Kenobit, che in realtà, come dicevamo prima, è venuto qui, ci ha sorpresi per la sua internità al discorso, di cui ne eravamo un po' non al corrente, però adesso ci dirà perché è qui e che cosa domani si terrà qui a Forte Prenestino. Allora, sì, grazie. sono qui perché domani e dopodomani, quindi venerdì e sabato 10 e 11, qua al Forte Prenestino ci sarà Zona Warpa. Zona Warpa è la festa del videogioco ribelle e itinerante. Itinerante nel senso che la facciamo in giro per l'Italia. Eravamo alla Bisaboga di Marzabotto, località Montasico, in questi giorni. Abbiamo fatto lezioni di videogiochi ai bambini e alle bambine di una scuola libertaria. Dopo questa tappa a Roma saremo alle Casematte, all'Aquila, durante la settimana per un momento di laboratorio. E poi, esattamente venerdì e sabato, ma di settimana prossima, saremo a Bari, al Bread and Roses. Il videogioco ribelle, nel senso che al momento constatiamo che, al netto del nostro amore per i videogiochi, il videogioco viene raccontato principalmente nella sua forma di prodotto, videogioco come funzione del capitalismo. Quindi videogiochi, per carità, anche belli, perché ce ne sono di ottimi, ma che sono completamente innocui dal punto di vista sociale. E noi con questo evento vogliamo rivendicare il potenziale politico o anche solo sociale del videogioco, facendolo come? Facendo un evento che cerca di abbattere ogni possibile barriera, da quelle più ovvie di genere, sessualità e razza, a quelle che spesso vengono sottovalutate, perché quella economica, perché il videogioco, se tu vuoi fare videogiochi oggi in Italia, a me spezza il cuore. Io lavoro nell'ambito dei videogiochi e mi spezza il cuore quando una ragazzina mi chiede: Fabio, io vorrei entrare nel mondo dei videogiochi, cosa posso dove vado a studiare? Perché le scuole che ti professionalizzano sul videogioco oggi in Italia sono anche ottime, ma costose, private, con delle rette costose che poi ti chiedono anche l'investimento di andare a vivere in un'altra città. Quindi al momento fare il videogioco, la barriera d'accesso economica al videogioco è molto concreta, e il videogioco viene raccontato molto nell'ambito di numeri, milioni di copie vendute. E per carità, in questo ambito ci sono videogiochi ottimi, ma si va così a tacere un sottobosco di giochi interessanti e che hanno cose da dire, magari battaglie, individualità, e ci perdiamo soprattutto l'occasione di diffondere, esattamente come c'è quella bella zine, si chiamava Sniffing Glue, una zine punk negli anni 70, che aveva queste due pagine per me leggendarie con un accordo di sol, diteggiatura, con scritto: questo è un sol, un do, questo è un do, questo è un re, adesso vai e fai una band. Vorremmo rivendicare questa possibilità dei videogiochi, perché è ovvio che puoi fare la Monna Lisa, ma puoi fare anche uno scarabocchio, e magari quello scarabocchio, se hai qualcosa da dire, è una bomba. E quindi qua a Zona Warpa, al Forte Prenestino, avremo due giorni di talk e workshop completamente gratuiti. L'ingresso è con sottoscrizione, ma teniamo molto al fatto che chi non ha niente possa venire, perché vogliamo... Quello avviene sempre al Forte Prenestino, ovviamente. Certo, però anche per questo è stato bello incrociarsi con il Forte, perché abbiamo subito trovato... Io ringrazio anche Giorgio, per esempio, perché il contatto, la prima scintilla con il Forte è stata tramite lui, poi sono venuto al collettivo, sono stato proprio molto felice di poter fare questa cosa che per me ha molto significato, e ci ho messo l'anima io e tutto il collettivo Warpo, che è fatto da un sacco di persone. Infatti è il secondo anno che Zona Warpa è qui a Forte Prenestino, e quindi speriamo che, insomma, che la cosa continui. Tanto comunque tu sei qui con noi, resti qui con noi e ne parliamo durante la puntata, perché in realtà l'origine di questo sesto episodio ruotava intorno alle novità del mondo emergente su cui poi magari ti facciamo anche delle domande in relazione ai videogiochi. E per questo avevamo preparato un piccolo intervento che avevamo già mandato anche negli anni passati, ma che ci introduce, secondo me, in maniera molto molto diretta al problema. Ma che volete? Chi siete? Perché? Non si vede, forse? Siamo cinesi, della Repubblica Popolare, una nazione di 700 milioni di abitanti. la più popolosa del mondo, la più arretrata del mondo. Ma il nostro riscatto è già una realtà. L'atomica cinese ha segnato il primo passo di questa marcia, diretta a recuperare al più presto e con ogni mezzo lo svantaggio nei confronti dell'Occidente. Tutti gli scienziati del mondo, ne siano o no consapevoli, vengono sorvegliati affinché ogni loro scoperta arrivi alla Cina con qualsiasi mezzo. Io non ho inventato niente. Non ho scoperto niente che possa... Questa dell'astronave sepolta oltrepassa ogni immaginazione. E se anche un solo elemento capace di dare all'uomo la supremazia sull'uomo ne potrà derivare, sarà la Cina che ne trarrà vantaggio e nessun altro. Cattivissimi questi cinesi, e adesso abbiamo capito anche perché non va al sottofondo. No, abbiamo capito perché assolutamente perché sono ammutolito di fronte esatto. ai cinesi. E abbiamo capito perché in realtà hanno scalato in così pochi anni le vette anche del capitalismo spaziale, questi tremendi cinesi. Beh, si trattava di un estratto da un film italiano, tra l'altro del 66, 2+5 Missione Hydra. Io ve lo straconsiglio perché è un capolavoro poco conosciuto, in cui avvengono un sacco di cose, ci sono un sacco di richiami e poi soprattutto ci sono... E poi c'è questo pezzo dei cinesi che... No, ma ci sono delle... Dovrebbe essere in un film... Guarda, Bimo, ci sono delle scimmie... A un certo punto questa astronave atterra su un pianeta dove ci sono delle scimmie che hanno in mano ossa e cose... E un anno prima di Kubrick tutto ciò avveniva, quindi... Vabbè, insomma, diciamo adesso senza finire nella... Nel già detto nell'altro... Esatto, in un retrospettivo. In retrospettivo. No, e allora, questa puntata è in realtà aveva questo intento, però l'abbiamo un po', come dicevamo prima, l'abbiamo un po' deviato grazie anche al nostro ospite, il che va anche bene perché alcuni argomenti ci li teniamo un po' per la prossima puntata, però magari un minimo di introduzione a quello che di cui parleremo lo possiamo dire. E il tema doveva essere in parte e sarà magari quello dei BRICS, quindi di questa unione economica degli stati emergenti e delle loro priorità nello spazio, perché effettivamente tante delle condizioni geopolitiche di spostamento degli assi geopolitici che oggi ci troviamo a vivere direttamente sulla nostra pelle sono legati a questo evento della creazione dei BRICS, non necessariamente in termini spaziali, ma sicuramente in termini di ridefinizione di equilibri, no Bimo? Sì, beh, poi oltre ai BRICS in realtà si stanno affacciando allo spazio anche tantissimi altri paesi e i ruoli che sono possibili in questa fase sono molti di più di quelli che erano possibili nella fase, diciamo, classica. Sì, Kenobit, com'è il videogioco tra i BRICS? Cioè, nel senso, i BRICS, ad esempio, per farti un esempio, nella nuova corsa allo spazio, in cui 6 superpotenze mondiali hanno la possibilità di mandare dei vettori nello spazio, 3 appartengono all'Unione dei BRICS. Nel campo, invece, per esempio, delle avanguardie dei videogiochi, i BRICS, come si posizionano? Allora, è una domanda molto interessante. In questo momento... A Berlino si sta tenendo un festival che si chiama A-Maze, come A-Maze, nel senso ti diverti, ma E-Maze, un labirinto, che è un evento un pochettino meno Riot di zona Warpa, ma comunque di segno affine, che anche questo evento è itinerante come zona Warpa, lo fanno spesso a Berlino, spesso ad Amsterdam, spesso a Johannesburg, dove... Ero stato qualche anno fa a suonare il Game Boy come Kenobit e avevo incontrato una scena incredibile, estremamente frizzante, di sviluppatori che, anche solo involontariamente, in quanto esclusi ed escluse dalla discussione mainstream internazionale, usavano il videogioco come noi vorremmo che lo si usasse, ossia come mezzo dirompente, come molotov di significato, e lo facevano già ovviamente con tutto relazionato a quelle che erano le tematiche di una città come Johannesburg, che è una città con una gentrification devastante, con la schiavitù, le cicatrici dell'apartheid. E questo è quello che conosco concretamente dei videogiochi nei BRICS. Mi viene anche da citare, in realtà facendo un... tornando a una corsa allo spazio passata, una cosa che è successa nell'ambito dei videogiochi, mentre c'era la corsa allo spazio, che è l'invenzione di Tetris. E molti non sanno che Tetris nasce in Unione Sovietica da Alexei Pajitnov, che era un programmatore di uno studio sperimentale di informatica in Russia. Il gioco era incredibile, per ovvi motivi, lo sapete, cioè Tetris era incredibile, e il dischetto, come è naturale che fosse in Unione Sovietica, gira liberamente fino a varcare in vari punti la cortina di ferro, perché era un floppy, era facile che varcasse la cortina di ferro. Ai tempi c'era grande fame di videogiochi tra i publisher e c'erano delle fiere in cui gente andava e presentava dei giochi. Succede che in una fiera in Austria un signore sostiene di avere i diritti di Tetris, magari anche credendoci veramente, e li vende a un esponente di Atari. E da un'altra parte del mondo uno vende i diritti a Nintendo. E parte una storia incredibile legata alla proprietà privata, alla proprietà intellettuale o all'assenza della medesima. E una storia in realtà rocambolesca, molto divertente, che finisce con Nintendo che convoca separatamente Atari e Nintendo in due giorni, in stesso giorno, orari diversi, ignari l'uno dell'altra, e dice: oh, ma tu stai vendendo, tu hai stampato centinaia di migliaia di cartucce di una roba che è della Russia. E ottengono un accordo economico con entrambe e rimangono nel capitalismo Atari e Nintendo, entrambe con dei diritti concreti che si scannano legalmente. E questo è il motivo per cui su console, quindi sul Game Boy, è uscito Tetris della Nintendo, e in sala giochi c'era il Tetris dell'Atari. E tutto ciò senza escalation militare, il che mi sembra fantastico. E sulla Mega c'era un altro Tetris. Allora, io direi, come al solito, stiamo come l'ultima arrivata qui del nostro programma è sempre la musica, quindi sicuramente Bimo il primo brano. E siamo sempre a Boca Chica Cosmodrome, sempre in diretta da Radio Forte su nel centro sociale occupato autogestito di Forte Prenestino di Roma. Ray, chi era? Chi ci hai fatto ascoltare? Innanzitutto salve a tutte e tutti, questo era un brano di Steve Albini, è un saluto a questo Recorder of Music che ci ha lasciato ieri all'improvviso all'età di 61 anni, un personaggio importante della scena musicale punk, post-punk, alternativa, chiamiamola come ci pare. Da oltre 30 anni appunto faceva musica e aveva avuto i suoi gruppi Big Black, Shellac, che è quello che abbiamo sentito, e ha prodotto Nirvana, i Pixies, Breeders, PJ Harvey, eccetera eccetera. Questo brano è dall'album Terraforming e quindi si chiamava Disgrace e parla di un uomo che pensa di essere un razzo. Beh, ci sembra assolutamente in tema, quindi salutiamo così. Grazie. E non l'abbiamo tagliato. Grazie. No, infatti, malgrado ci fosse su un piatto d'argento, non l'abbiamo tagliato. Sì, il buco al centro. Sì, quel buco che sembrava un buco, in realtà non lo era. Era parte del pezzo. Non l'avevo mai sentito, grazie. E poi voglio dire, più azzeccato di così. Allora, secondo me siamo pronti per una. Bellissima la copertina, tra parentesi. Bellissima in radio, purtroppo. Ce la descriverà nella prossima puntata. E a questo punto che abbiamo introdotto questi colori immaginifici, soprattutto immaginari, io direi chi meglio dell'agitatore culturale Andro Malis con la sua rubrica può in qualche modo istruirci a tutto ciò. Quindi sigla e Andro Malis. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Latu, Barada, Nikto. Oggi affronteremo un viaggio straordinario nella fantasia di uno dei più grandi artisti visivi e visionari di sempre. Il libro è 40 giorni nel deserto B di Monsieur Moebius, pubblicato da Nuage nel 1999 nell'assurdo formato orizzontale di 25 cm x 16, cioè le misure esatte del carnet originale utilizzato da Moebius per 72 incredibili disegni. Il deserto B di Moebius è la sua deserbizzazione. Deserbe suona come deserbier in francese, cioè la rinuncia dopo tantissimi anni di consumo alla marijuana. Il conseguente terrore di perdere le capacità visionarie che fino ad allora avevano caratterizzato il segno e la narrazione dell'artista e la tentazione continua di ricominciare a fumare erba. Effettivamente, il racconto muto che questi disegni incredibili narrano è il delirio allucinatorio di un guerriero, sacerdote, santone, yogin, samurai, monolite umano, che rimane sempre immobile con il suo inattivo arco accanto, a gambe incrociate, piantato nel deserto. Non credo sia un azzardo pensare alla tentazione di Sant'Antonio nel deserto, che per secoli sono state fonti di esercizio artistico per visioni allucinate e metaforiche, per esempio da un presunto giovane Michelangelo, da Bosch, a Bruegel il giovane, a Morelli, Dalì, e che ha visto impegnato in letteratura anche Flaubert. Non mancano infatti demoni e donne tentatrici, ma ci sono tutte le chiavi di lettura della scatola nera dell'anima di Moebius. La mutazione fisica, per esempio, la germinazione architettonica e la linea del deserto stessa come orizzonte magico da cui l'impossibile può sorgere. Vi è anche un demone o un angelo custode, un misterioso oggetto volante che di volta in volta diviene una penna, un aratro, un cilum, un vibratore, uno strumento musicale, un dirigibile e che sopravvive al santo alter ego dell'artista quando si dissolverà infine in una rapida combustione, guarda caso, una volta aver immaginato il totale inimmaginabile, cedendo quindi alla tentazione peggiore possibile, la creatività, libera e felice. A confonderci o a chiarire la nebulosa narrativa, a seconda del punto di vista, l'ultimo disegno ci mostra un antropomorfo coniglio bianco di spalle. Grazie Andro, e serrando i ranghi, se non ricordo male, Bimo, nella quarta puntata di questa stagione noi avevamo iniziato a introdurre tutta una serie di novità, l'abbiamo anche detto un poco prima, insomma i BRICS fanno sicuramente parte in maniera trasversale di tutte queste novità, però tu hai qualcosa da raccontarci di un po' più dettagliato? Sì, in realtà, come dicevo prima, lo spazio è diventato anche una... un'attività che riguarda stati che non hanno un loro programma spaziale, ma che e quindi sfuggono un pochino alla, al gruppo degli iniziatori che avevano sostanzialmente tutti degli non allineati, quindi non allineati, ma non necessariamente, alcuni sono anche allineati, però non hanno mai avuto un programma spaziale, non hanno mai avuto né i fondi o magari neanche gli interessi per farlo, e che invece in questa nuova fase hanno o l'uno o gli altri, o scoprono di averli tutti e due, e hanno modi diversi per affacciarsi tra appunto le nazioni che vanno nello spazio, gli stati che vanno nello spazio, diverse rispetto a quelle che noi conosciamo dall'epoca classica. E, oggi vorrei soffermarmi sul programma Artemis. Ecco, no, io dico l'accento, guardo te, boh, così. No, ma questo è questo è inglese, moderno, anzi sì. Americano moderno. Artemis, diciamo. Artemis. E soprattutto la sua articolazione politica, cioè gli accordi Artemis, che hanno coinvolto moltissimi paesi che non avevano alcun ruolo nello spazio nella fase precedente. È interessante il fatto che questi accordi si propongano come una prosecuzione o comunque il completamento o la realizzazione dell'Outer Space Treaty, che noi conosciamo abbastanza bene, ne abbiamo parlato moltissime volte. L'unica legislazione universalistica in questo momento, esatto, solamente tradita, esatto, ed ulteriormente, probabilmente, almeno a mia opinione, tradita ulteriormente da questi accordi, a partire dal fatto che laddove il trattato è stato definito e coinvolge in modo multilaterale l'ONU, gli accordi Artemis sono invece accordi bilaterali tra gli Stati Uniti e di volta in volta tutti gli altri partecipanti, il che è già una differenza enorme, no? Che dici, Cobol? Sì, no, assolutamente. In realtà uno dei grandi mutamenti in questo campo è la fuoriuscita della cooperazione russa dall'ISS, che ha cambiato, ha sparigliato tutte le carte in gioco da questo, in questo senso, perché lì c'erano tutta una serie di investimenti molto importanti, e la Russia era anche importante per l'Europa, lo dicevamo qualche tempo fa, per quello che riguarda i vettori. Potrebbe aver segnato la Roma. E oggi vettori europei non ci sono vettori, ed erano comunque, prima di questo conflitto con l'Ucraina, si pensava che la Russia potesse continuare ad essere il vettore privilegiato, quindi non è più così. Da qui nascono soprattutto, se vuoi, un bilateralismo oggi dal punto di vista della progettazione, perché Artemis da una parte, con i suoi partner, che è il Giappone, il Canada, anche l'Italia. Appunto l'ESA, con anche l'ASI. No, ma l'Italia in realtà sono paesi che firmano gli accordi, e l'Italia è uno dei primi firmatari, tra l'altro, nel 2020. Sì, sì, sì. E dall'altra invece la Russia e la Cina, che procedono in maniera autonoma, ma che in realtà si sa è anche in cooperazione in parte con l'India, hanno una loro agenda che stanno seguendo, e che di cui parleremo tra l'altro, perché l'accordo che è in immediata concorrenza con l'Artemis è l'accordo per la base lunare a guida cinese, Volevo dire, l'India fa parte degli accordi Artemis, però ha firmato. Ah, sì. Ah, ok, ok, sì, sì. È tra i firmatari. È tra i BRICS, ma non firmatari. Esatto, da parte. Sì, diciamo che questa cosa dei BRICS non si rimappa esattamente. No, tra l'altro i BRICS hanno. No, è vero, i BRICS sono più modulari. E in realtà i BRICS hanno un comitato spaziale proprio loro, completamente loro, che è nato abbastanza recentemente. Ma i BRICS sono effettivamente un sistema di accordi bilaterali che non prevedono nessun tipo di fedeltà. Quindi, insomma, come dicevi, insomma, la loro partecipazione è assolutamente più trasversale, però questo di nuovo spariglia un po' quelle che sono le carte in tavola più volte. Questo tipo di accordi tra l'altro hanno l'ambizione di superare il problema che abbiamo discusso più volte dell'Outer Space Treaty sullo sfruttamento delle risorse spaziali. Che alcuni affermano essere proibito dal trattato, mentre invece questi accordi permettono, e il modello a cui sembrano ispirarsi è quello dello sfruttamento delle risorse del fondo dell'oceano. Che però, questo è non so come si chiama, il presidente della NASA, segretario della NASA, che ha fatto questo parallelo. Lui dice le risorse dell'oceano possono essere sfruttate, nessuno però possiede l'oceano. E quindi, nello stesso modo, dovrebbe funzionare lo spazio. C'è però un piccolo problema, che lo sfruttamento delle risorse dell'oceano non è regolato da accordi bilaterali con gli Stati Uniti, ma è regolato in sede ONU. Tra l'altro l'autorità che regola questo tipo di questioni ha sede in Giamaica, tra l'altro, quindi questa è già una garanzia, per come la vedo io. E quindi questo è fondamentalmente diverso dall'impostazione che è stata data dagli Stati Uniti. Quindi anche l'argomento che è stato proposto dalla NASA è abbastanza suicida da questo punto di vista, perché le cose non funzionano allo stesso modo. Tra l'altro l'autorità, che si chiama International Seabed Authority, ISA, è espressione diretta di un trattato dell'ONU, United Nations Convention on the Law of Seas, UNCLOS. UNCLOS, anzi, scusate, che sono questi acronimi dell'ONU terrificanti, che però comunque è il prodotto di una discussione propriamente multilaterale. E quindi, tra l'altro, per dire un'altra differenza clamorosa, una delle funzioni dell'International Seabed Authority è quella di garantire l'accesso di tutti gli stati che fanno parte dell'accordo alle tecnologie necessarie per sfruttare le risorse sul fondo dell'oceano. Non c'è niente del genere, ovviamente, negli accordi Artemis. Chi ha la tecnologia fa quello che vuole fare, chi non ce l'ha... Allora, noi la prossima volta parleremo soprattutto di questo Marco Kovic, che in realtà è un analista svizzero, che ci dice che tutta la giurisprudenza che sta avvenendo a questo punto messa in campo nel campo spaziale, in termini appunto di legislazione spaziale, non ha molto senso per una serie di controindicazioni o comunque di questioni non prese abbastanza in considerazione e che esploreremo. E lui propone quello che abbiamo già, però ne parleremo meglio la prossima volta, questa ONU interplanetaria, che è un progetto molto interessante di reverse engineering sociale, che io trovo davvero tanto tanto interessante. Un'altra differenza importante è quella che in qualche modo, lo diciamo anche la volta scorsa, gli Stati Uniti, diciamo il corpo spaziale principale negli Stati Uniti oggi è il Pentagono, quindi l'idea che hanno gli Stati Uniti dello spazio è la militarizzazione dello spazio, mentre i BRICS dall'altra, comunque attraverso la loro retorica, propongono una sorta di esplorazione pacifica. Io a questo punto chiederei, visto che ce l'abbiamo, glielo possiamo proprio chiedere a Kenobit, due esempi, uno di videogioco di esplorazione spaziale pacifica, così che chi ci ascolta può giocarci e entrare in questo mood, in questa atmosfera, e un altro, un videogioco, magari è più facile trovarlo da questo punto di vista, di militarizzazione potente dello spazio. Allora, subito partiamo dal primo impatto del videogioco, dello spazio nel videogioco, che tra l'altro è proprio tra i primissimi videogiochi, ed è subito militare, perché Space Invaders, gli invasori dello spazio, che sono assolutamente ostili e bisogna sparargli, e Missile Command, che è proprio un'invasione dello spazio con una base missilistica che deve abbattere le minacce. Quindi era difesa. Bellissimo Missile Command. Grandi giochi, entrambi grandi giochi. E poi mi pare ci fosse per comandare, cioè era una specie di mirino con una sfera. Sì, c'era una trackball, sì. Perché era un comando perfettamente analogico. Era bellissimo, molto bello. Era. E poi però c'è stato uno spiraglio di progresso e futuro in Lunar Lander, che era un gioco anche lì squisitamente analogico, che faceva quello che dice: devi atterrare sulla Luna, su dei crateri, avevi un lander lunare e non dovevi sparare a nulla, non c'erano nemmeno mostri, minacce, era semplicemente un gioco in cui la fantasia era fare contatto con un altro pianeta. Era difficilissimo, era. Ma bellissimo. Sì, vettoriale, mi pare, no? Era vettoriale, sì, vettoriale. E che non sia stato in realtà anche l'asilo di molti aspiranti cosmonauti e astronauti. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, quindi un brano musicale. Ti ho preso completamente in contropiede. Ma tu sei sempre impreparato a questo punto. Lo faccio apposta. Sì, beh, me ne pregio. Arriva. Adesso sentire il brano era. E siete sempre in ascolto di Boca Chica Cosmodrome, sempre in diretta da Radio Forte, all'interno del centro sociale occupato e autogestito di Roma, Forte Prenestino, da cui tutti i giovedì andiamo in diretta con questa trasmissione, oggi un po' crossover grazie al nostro ospite Kenobit, ma che si occupa di espansione del capitalismo nello spazio. A questo punto, senza sigla, questo grande colpa di Remax, che nonostante tutta la sua cultura... So che noi non annunciamo mai la musica che mettiamo. Ah, entri così a gamba tesa. Esatto, lo so, le tradizioni sono importanti, per carità, mi rendo conto, però la vivevo sempre come un problema. E allora dai, vai. Di lasciare tutti... Allora, per... Sai cos'è? È perché è molto bello poi scriverli su Telegram, il che spinge le persone a iscriversi a Telegram. Ma noi non facciamo neanche quello, almeno io non lo faccio, per cui... L'abbiamo fatto solo una volta. Adesso. Esatto. Allora, questo brano è di un artista che si chiama Nothing Was There e il brano si intitola Lunatic's Eye. Molto bello. Mi hai interrotto la sciabolata sul nostro Remax, che non si è ancora preparato una sigla, cazzo di sigletta in quattro puntate. Insomma, però, poi... però una proposta e qui le siglette. E qui noi ci teniamo, ci teniamo le siglette. Quindi va bene. Quindi tatam, Remax con la sua rubrichina. Remax, che intanto vi saluta, sono tornato fra di voi, sono felicissimo di essere qui. E partirei subito con i complimenti che ci sono arrivati per come avete parlato del satellite Echo One. E devo dire, mi è piaciuto molto pure a me, ho ascoltato da remoto l'altra settimana. Che avevamo detto questo satellite, francamente lo ignoravo, sapevo San Marco, sapevo Sputnik, non conoscevo questa esperienza. E anzi, ne proporrei... ne parlava ne ha parlato in 45 giri, esatto. Giri, sì. Comunque, e proporrei Echo o Echo One come nome della mia rubrica, se per caso mi richiamerete in una futura stagione. Sì, però col nome della rubrica va la sigletta. La sigletta, e ci penseremo. Cioè, su Echo già le idee potrebbero abbondare. Questi sono arrivati molti complimenti per aver trattato questo argomento che evidentemente risultava sconosciuto e più. Poi è arrivata una domanda, ne sono arrivate diverse, ma oggi dobbiamo cambiare un po' così al volo. Direi che può essere interessante la domanda che arriva da Anita, che ci scrive dalla provincia di Avellino. E, ciao Anita. E dice: ho ascoltato la puntata della passata stagione di Boca Chica Cosmodrome, tanto verrò sgridato pure io per la pronuncia. Comunque, quindi lei lo dice in maniera giusta. Lei lo scrive giusto. Però, okay. Con l'accento sulla O chiusa, okay. Con la K. Con la K. Vengo sgridato regolarmente pure io su questa cosa. Dice: come tutti, sapevo degli esperimenti spaziali del passato dove sono stati sacrificati animali, cioè cani e scimmie. Dice: adesso ho scoperto anche che sono stati utilizzati tardigradi e gatti. E dice: quindi sapete se è ancora ammessa la sperimentazione sugli animali in ambito di ricerca spaziale, o se ci sono progetti di mandare animali nello spazio? Questa è la domanda. Beh, tardigrada sono stati inviati, quindi sì, sperimentazione sugli animali. E non è detto che siano morti, però. Vabbè, attenzione. Questa è una vecchia polemica mia e di Bimo. Nessuno ha trovato un cadavere di tardigrada. No, questo no. Però, per cui direi sì, magari non fanno più come facevano i francesi, che mandavano i gatti in maniera così esplicita, mandano animali un po' più piccoli, anche se credo che forse conigli, adesso forse potrei sbagliare, ma conigli o piccoli roditori continuano ogni tanto a essere inviati. Non ne fanno più dei personaggi. Non ne fanno più dei personaggi, soprattutto non se la rivendicano assolutamente. Insomma, è chiaro che per noi su questo ci siamo concentrati soprattutto nella prima stagione. Nella prima stagione, oltre a fare una critica spietata verso il capitalismo spaziale, proponevamo in maniera più consistente una serie di controindicazioni e di contromisure, anzi più di contromisure, su come in realtà approcciare a un'era spaziale comunista, libertaria. Proponevamo degli orsacchiotti. Sì, no, ma soprattutto in ogni caso, soprattutto eravamo, da questo punto di vista, ci spingevamo più anche le nostre tendenze antispeciste e quindi non incompatibili anche con la brutale sperimentazione animale. Beh, insomma, su cui anche sia la Russia, sia l'Unione Sovietica che gli Stati Uniti, di cui hanno assolutamente abusato. Se mi permetti, la seconda parte della domanda era interessante. Dice: se sappiamo se si progetta di mandare animali nello spazio come nel progetti di futuri terraforming di colonie spaziali. Allora, guarda, questo mi sembra interessante. Sì, molto interessante. La cosa che so per certo è questa sulla questione della terraformazione. Che i coloni che dovranno colonizzare ancor prima di terraformare un pianeta non saranno dotati di animali domestici né per usi alimentari, quindi neanche per allevamento. No, i batteri sì, probabilmente sì, diciamo parliamo più di animali di grandi dimensioni. Questo perché? Prima di tutto perché su pianeti ostili far vivere una mucca, un coniglio, potrebbe comunque essere un problema, visto che probabilmente le condizioni di vita anche degli esseri umani sono, a parte che chi ci va le accetta, mentre è un animale di acqua che serve, sì, per una appunto mucca. Ma soprattutto poi una povera mucca in microgravità, non voglio neanche pensarci. No, ma c'è una ragione ancora più interessante secondo me, che tra l'altro ha uno spirito antispecista da questo punto di vista. I coloni potrebbero affezionarsi in maniera così spasmodica agli animali che invece dovrebbero nutrirsi. Perché? Perché la vita su un pianeta alieno, no, ma non me lo sono inventato, non è una miopia. Non stiamo mettendo in dubbio. C'è anche la sfida non banale di farle arrivare le mucche sulla Luna o su Marte, nel senso non è così banale che una mucca o un animale domestico sopravviva all'accelerazione per uscire dalla velocità di fuga della Terra. Beh, vabbè, i canetti, i gattini e gli scimpanzé sono sopravvissuti, però no, sì, però diciamo al di là delle difficoltà tecniche di mantenere in vita un animale su un pianeta, tra l'altro la Luna non si può pensare di terraformare la Luna, sulla Luna potranno esserci solo basi militari o no, anche commerciali, ma insomma diciamo lì è più difficile, a parte in situazioni tipo la Nostromo, no? di Alien con i gatti. Però ecco, la cosa su cui mi stavo concentrando era esattamente questa, cioè l'idea che appunto possa nascere su un pianeta alieno un rapporto così profondo tra la solitudine dei coloni e gli animali che eventualmente questi si sono portati come riserve alimentari, che poi spingerebbe probabilmente le persone, gli umani, a non mangiarseli più. Questo era insomma uno dei problemi sollevati, il che da un certo punto di vista è anche interessante, perché ci racconta di una colonizzazione e terraformazione a suo modo antispecista, se mi volete passare il termine. Non so, tu Bimo avevi qualcosa di... No, niente in particolare, devo dirti, non ho niente di interessante da dire. Beh, insomma, son felice che siamo scivolati anche sull'antispecismo. Questo lo dico anche a Kenobit, ti ripeto, se ti andrassi e vi andrà di sentirvi le scorse puntate, lì ci siamo molto concentrati sulla parte diciamo cosmo anticapitalista, più ancora che della critica, su cui invece in questa edizione siamo un po' più puntuali, raccontando ciò che avviene giorno per giorno. Allora, noi siamo quasi in chiusura, intanto Kenobit, grazie di essere stato con noi, non era assolutamente prevista la sua partecipazione, ma insomma ci siamo trovati a questo punto e ci siamo molto divertiti, e mi sembrava il minimo che tu fossi qui con noi. Però ricordaci assolutamente anche come spot, anche semplicemente come spot pubblicitario, cosa avverrà nei prossimi due giorni al CSO a Forte Prenestino. Allora, domani venerdì 10 e dopodomani sabato 11, qua al CSO a Forte Prenestino ci sarà Zona Warpa, la festa del videogioco ribelle e itinerante. Due giorni di, durante il giorno dalle 3 in avanti, workshop gratuiti, talk gratuiti, su quindi cose che vi daranno o strumenti concreti per fare videogiochi anche se non avete basi, oppure semplicemente sapere, spunti e idee per farli o viverli in maniera più consapevole. E poi ci sarà uno spazio espositivo gratuito con sviluppatori e sviluppatrici da tutta Italia che porteranno i loro giochi, ci saranno installazioni, e poi la sera ci saranno dei momenti prima di intrattenimento con avremo due fumettiste, il dottor Pira sabato e Nova domani, che faranno un momento di intersezione tra videogioco e fumetto, e dopo musica, Game Boy Music, techno e musica che ha a che fare con progetti videoludici. Beh, benissimo, speriamo che ci sia anche molto gioco spaziale, molto gioco cosmico. Noi abbiamo letteralmente, non involontariamente, con grande intento, un talk sul lato spaziale dei videogiochi, su come viene raccontato lo spazio nei videogiochi dal passato remoto al passato molto recente, cioè al passato prossimo. Ma io direi che è un tipico appuntamento in cui Bimo e Raymax vanno come nostri inviati a questo punto. Sì, che beh, dite? Sì. Siamo già noi, detriti. A noi piacciono gli aperitivi, c'è da dire, però faremo un'eccezione. No, ma qui al Forte gli aperitivi ci stanno. Quindi, insomma, perché no? Lo potete assolutamente fare. Abbiamo inviti formali. Nello specifico, l'intervento sarà 11 maggio, quindi sabato. Lorena Rao ci farà il talk intitolato Da Space Wars a Starfield, come i videogiochi immaginano lo spazio. Sembra che l'abbiamo fatto apposta. Eh sì, è incredibile, è vero, è vero. Quindi ci sarà sicuramente una delegazione. Io resto a dormire qui. Una delegazione Boca Chica Cosmodrome. Cosmodrome. E beh, insomma, Kenobit, grazie. Bimo, noi ci vediamo giovedì prossimo, anche esatto. Remax. Ringraziamo soprattutto anche il nostro Andromalis e Connie alle nostre spalle, ovviamente. E questa era Boca Chica Cosmodrome. E a giovedì prossimo, ci siamo giovedì? Direi di sì. Per una diretta, la settima puntata. Sigla finale.